Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Alle 22:40 circa del 9 ottobre 1963 stavo per andare a dormire, quando a un certo punto sentii un grande rumore. Pensai subito alla bomba atomica, tanto era forte il frastuono. Ma qualcuno gridò: "La diga, la diga!" Sono Cesare, abito a Colle Umberto in provincia di Treviso, 45 anni, sposato con Cristina, due figli Alessio ed Emanuele e sono il figlio di Bruna, la protagonista di oggi. Ciao! Questa è la diga a doppia curvatura più alta del mondo, la diga del Vajont. Creerà un lago artificiale capace di 150 milioni di metri cubi d'acqua. Lo stesso ingegner Carlo Semenza, ideatore e progettista dell'opera, ce ne racconterà la storia attraverso le successive fasi di lavoro. Quando un'opera è terminata, gioia e amarezza si fondono. Gioia perché ognuno di noi può dire: ci siamo riusciti, ma le ansie, le ore di fatica e soprattutto il ricordo dei nostri compagni caduti sul lavoro, un po' di noi stessi, insomma, non ci appartengono più. Restano là, sull'opera e nel tempo, patrimonio di tutti. Si chiama Altezza Massima 261,6, il cortometraggio che vi abbiamo fatto sentire, il pezzo di cortometraggio che vi abbiamo fatto sentire. Quando questo cortometraggio è stato girato nel 1959, ancora non si sapeva, non si poteva nemmeno immaginare di che cosa sarebbe successo di lì a 4 anni. Quando nel 1963 succedeva una cosa che ormai tutti conoscono, tutti quanti sanno, fortunatamente, la storia del disastro del Vajont. Tutti quanti sanno che la diga gloriosamente rimasta in piedi, che non si è mossa. Tutti quanti sanno che è stato un monte a cadere ed è stata l'acqua a fuoriuscire e causare oltre 2000 metri. E proprio perché tutti sanno questa storia, è utile sentire le storie legate a questa storia. È utile sentire le testimonianze dirette delle persone che l'hanno vissuta, che hanno visto un pezzo di storia enorme e tragica di questo paese, che risale proprio a quella notte del 9 ottobre del 1963. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è sempre Voi siete qui. Siamo tornati in diretta da Milano, non siamo più a Firenze, a Pitiuomo, ci sono altre trasmissioni come avete sentito fino a qualche attimo fa. Noi invece siamo tornati qui e oggi raccontiamo una storia che è una storia, diciamo, a due voci, nel senso che la persona che ce l'ha scritta, ce l'ha mandata è Cesare, che più tardi sentiremo al telefono, ma l'autrice, la voce narrante di questa storia è quella di Bruna, cioè sua mamma, che era una ragazza quando accadde nel 63 che il Monte Toc venisse giù, si infilasse nell'acqua dietro la diga e che quindi ha deciso insieme al figlio di raccontare. È arrivata proprio una mail di Cesare che diceva: "Ciao Matteo, è da molto tempo che sto pensando di inviarvi questa storia, una storia struggente raccontatami da mia mamma Bruna, che ha vissuto in prima persona il disastro del Vajont. Qualche tempo fa ho sentito una puntata, credo fosse quasi un anno fa, in cui parlammo già del Vajont grazie a un'altra testimonianza, e quindi ho sentito questa puntata e ho deciso di inviarvela. Io che sono cresciuto a Pane e Vajont provo comunque sempre un brivido di emozione quando mia mamma mi racconta, magari per la 200ª volta, questo evento. 349 238 6666, se avete voglia di raccontare qualcosa riguardo a questa tragedia, se l'avete vista, se avete 65-70 anni, insomma, siete tra quelli, se eravate là in quei giorni, se volete raccontarla, c'è anche un profilo Facebook dove tra l'altro stiamo raccogliendo un sacco di altre storie. E ringrazio Alessandro, adesso non faccio in tempo a leggerla, ringrazio Jonathan che ci ha mandato una foto pazzesca di dei bambini che sono su dei tricicli che girano su quello che sembra il piazzale della chiesa di Longarone e invece è il pavimento della chiesa di Longarone, dove non c'è più nulla, non ci sono più muri, ci sono solo questi bambini che girano con dei tricicli che gli sono stati mandati da una raccolta di un giornale. Andate sul profilo Facebook del programma per vedere tutto e per raccontare se avete voglia. Voi siete qui, Radio 24 è il profilo Facebook. Se avete voglia invece di sentire ancora una volta questa storia vista da un punto particolare, dal punto di vista di Bruna, voi siete qui. Alle 22:40 circa del 9 ottobre 1963 stavo per andare a dormire, quando ad un certo punto sentii un grande rumore. Mi trovavo nel giardino della mia casa e stavamo chiacchierando con i componenti delle 5 famiglie vicine di casa a Fae Alto, frazione di Longarone. Pensai subito alla bomba atomica, tanto era forte il frastuono. Ma quando qualcuno gridò "La diga, la diga!", capimmo di che cosa si trattava. Il più grave disastro al mondo causato da un invaso artificiale si stava materializzando. Mia mamma abitava a Faè di Longarone, che è una frazione a circa 3 km dal centro. La cosa che ricorda di più mia mamma è l'onda d'urto, il frastuono dell'onda che avanzava la sera del disastro. In quel momento circa 270 milioni di metri cubi del monte Toc si staccarono scivolando a velocità folle, con una potenza pari a 2 bombe atomiche, all'interno del bacino artificiale della diga del Vajont. L'acqua fuoriuscì scavalcando il manufatto e sterminando i comuni di Longarone, Erto e Casso e le loro frazioni, provocando circa 2.000 vittime. La cosa che più mi colpì in quell'istante fu lo spostamento d'aria. Tanto è vero che se non ci fossimo ancorati alla ringhiera del giardino saremmo certamente sobbalzati di alcuni metri. Man mano che l'onda si avvicinava si vedevano i lampi dei pali della corrente che cadevano e si notava tanta schiuma bianca che avanzava. Dopo una notte insonne alle prime luci dell'alba mi incamminai con mio padre verso Longarone, lungo il percorso devastato della ferrovia perché la strada non esisteva più. Gli alpini accorsi sul posto avevano già predisposto delle croci bianche con le lenzuola, dove c'erano le 2 chiese del paese. Gli alpini stessi ci venivano incontro forzandoci di bere grappa per darci coraggio. Durante il tragitto incontrai la mia maestra e ci abbracciamo piangendo. In alcuni punti camminavamo sopra i cadaveri. Quando rientrammo a casa, fortunatamente rimasta intatta in quanto la forza dell'onda assassina non era riuscita a salire fino alla mia frazione, cominciarono ad arrivare le mie amiche da Belluno per vedere se fossi ancora viva. Nel pomeriggio poi sentimmo un rumore assordante sopra le nostre teste. Erano gli elicotteri. Stavano scaricando tonnellate di disinfettante sui cadaveri e sul bestiame morti per evitare infezioni. Infatti in quei giorni c'era stata un'ondata di caldo anomala per il periodo autunnale. Dopo un paio di giorni che passai a riconoscere i parenti morti all'obitorio a cielo aperto, mi assalì una febbre fortissima e fui ricoverata all'ospedale di Pieve di Cadore per una decina di giorni. Mi fecero tutti gli esami, raccontai l'accaduto ai sanitari. Mi fu riscontrata una forte depressione da shock emotivo. Nei giorni prima del disastro avevamo notato nel versante di Erto e di Casso, del monte Toc, gli alberi che camminavano verso il fondovalle. Gli anziani dissero che era segno evidente che la montagna stava franando. Il disastro si stava avvicinando. Nel disastro del Vajont la mia famiglia ha perso 9 parenti, tra cui una mia nipote, Maria Teresa. È stata trovata lungo il Piave a Santa Giustina, circa 40 km a sud, con il dito anulare tagliato per rubarle l'anello di fidanzamento. Maria Teresa infatti doveva sposarsi di lì a poco e al funerale la vestimo di bianco. Sua sorella, Giuditta, di 10 anni, non fu mai più ritrovata. In passato ne parlava abbastanza spesso, ha raccontato tutta la vicenda anche i miei figli, Emanuele ed Alessia. Adesso, col passare l'età, un po' meno, diciamo. Alcuni anni dopo il disastro, un uomo, Pietro Mario, che era emigrato dalla provincia di Treviso in Australia, tornò a casa in Italia e venne a visitare i luoghi della catastrofe. Casualmente ci incontrammo. Dopo un po' di tempo ci sposammo. E nel 1969 è nato mio figlio Cesare, che ora sta scrivendo questa storia con me. Bruna Argenton, nata il 6 febbraio 1930 a Belluno e reduce del Vajont. I remember someone's face, but then I forget their names. I have a book for writing down who I meet and where I'm going to, but my home is nowhere without you. La storia del disastro del Vajont è entrata nelle nostre case grazie ad un attore e ad una televisione che l'hanno raccontata. Lui, lo conoscerete ovviamente, si chiama Marco Paolini e dopo averla portata in tournée per anni con la potenza della TV, questa storia è arrivata anche a gente come me, nata anni dopo quel disastro, di cui ammetto io non avevo mai sentito parlare prima di allora. Ed è la prima volta forse che lo sento raccontato con le parole di un testimone, una persona che era presente e ha sentito, ha visto e ha vissuto quella cosa, al punto da farsi venire una febbre altissima per smaltire quel pezzo di vita. Sono andato, dopo aver letto il racconto di Bruna e di Cesare, sono andato a spulciare gli articoli dei quotidiani di quell'epoca, del giorno dopo il Vajont. E ho trovato uno dei pezzi più famosi, quello scritto da Dino Buzzati per il Corriere della Sera. Esattamente l'11 ottobre 1963. Buzzati, che era cronista ed era scrittore, ovviamente era soprattutto originario di quelle terre. Notte. Due finestre accese nella cabina comandi centralizzati. Nell'acqua del lago artificiale si specchia una gelida fascetta di luna. Ronzina i fili. Giù nel tenebroso botro lo scrosciare dello scarico di fondo a Longarone. Scheda, Faè, Rivalta, Villanova dormono. Ma c'è ancora qualcuno che contempla il video. Qualcuno nell'osteria, intento all'ultimo scopone. In quanto alle montagne, esse se ne stanno immobili, nere e silenziose, come al solito. No, a questo punto l'immaginazione non è più capace di proseguire. La valle, i monti, i paesi, le case, gli uomini, tutti riesco ad immaginare nella notte tranquilla, poiché li conosco così bene, ma adesso non bastano le consuetudini e i ricordi. Come ricostruire ciò che è accaduto? La frana, lo schiantamento delle rupi, il crollo, la cateratta di macigni e di terra nel lago. E l'onda spaventosa, dal cataclisma biblico, che ha lievitata gonfiandosi come un immenso dorso di balena. Ha scavalcato il bordo della diga ed è precipitata a picco giù nel burrone, avventurandosi, terrificante bolide di schiuma, verso i paesi addormentati. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia, tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna, e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Non è che si sia rotto il bicchiere, quindi non si può, come nel caso del Gleno, dare della bestia a chi l'ha costruito. Il bicchiere era fatto a regola d'arte, testimonianza della tenacia, del talento e del coraggio umano. La diga del Vajont era ed è un capolavoro perfino dal lato estetico. Mi ricordo che mentre la facevano, l'ingegnere Gildo Sperti della Sade mi portò alla vicina centrale di Soversene, dove c'era un grande modello in ottone dello sbarramento in costruzione. Era una scultura stupenda. Eppure non è bastato. Tutto era stato calcolato alla perfezione, quindi realizzato da maestri. La montagna, sotto, ai lati, era stata traforata come un colabrodo per una profondità di decine e decine di metri, e quindi imbottita di cemento perché non potesse poi in nessun caso fare dei brutti scherzi. Oppure apparecchiature sensibilissime registravano le più lievi regolarità o i minimi sintomi di pericolo, ma non è bastato. Ancora una volta, la fantasia della natura è stata più grande ed asciutta della fantasia della scienza. Sconfitta in aperta battaglia, la natura si è vendicata attaccando il vincitore alle spalle. Si direbbe quasi che in tutte le grandi conquiste tecniche stia nascosta una lama segreta e invisibile che a un momento dato scatterà. Seduta sul divano la signora Bruna nella foto che ci ha mandato e che vi invito ad andare a vedere sul sito di Radio 24, la nostra pagina, Voi siete qui. Bruna, appunto, la testimone di questa storia, quella che racconta attraverso le parole di suo figlio Cesare in questo caso, però di fatto la voce, la testimonianza della storia che vi ho appena letto, è, vi dicevo, in casa, seduta su un divano con una nipote, immagino, appoggiata proprio testa a testa, nonna nipote. Guarda in camera un po' contrariata e ha su uno splendido pile a greche azzurre e verdi. Pronto Cesare? Grande Matteo, come andiamo? Bene, tu come stai? Molto bene, dai, non mi lamento. Allora, andiamo subito sulla stretta attualità, Cesare, perché tu in questo momento ti trovi fuori da un ospedale perché la mamma Bruna è appena avuto un piccolo intervento, giusto? Sì, diciamo che io sono all'esterno dell'ospedale di Conegliano, qui in provincia di Treviso. La mamma ha avuto un intervento, ho sostituito il pacemaker che porto già da una decina, 10-12 anni. È uscito uscita lamentandosi dalla sala operatoria, per cui è un gran buon segno, Matteo. Benissimo, quindi insomma Bruna sta bene e possiamo raccontare la sua storia. Certo. Ok, innanzitutto salutacela appena la vede. Lei lo sa, vero, che oggi noi raccontavamo questa storia? Assolutamente sì, non può intervenire per ovvi motivi, però chiaro, ascoltiamo la puntata quando andiamo a casa. In podcast, diciamo. Perfetto. Certo. È tua figlia la ragazzina che c'è nella foto con lei, vero? La ragazzina è mia figlia, si chiama Alessia, 15 anni sabato, e poi ho un altro bambino che si chiama Emanuele, che ha 9 anni e mezzo. E Ale, viva la famiglia d'alto. Cesare, andiamo invece a quella sera. Dunque, quella sera lì è una sera che è entrata nella memoria degli italiani, grazie a Marco Paolini e alla sua storia del Vajont, al racconto del Vajont, poi certo, il film di Martinelli, eccetera eccetera. Effettivamente è stato Marco Paolini ed è stato chi lo mandò in onda all'epoca in televisione ad illuminare un pezzo di storia italiana che io banalmente non conoscevo, e che quando chiesi ai miei genitori anche loro dicevano: ah certo, come no, la strage del Vajont, eccetera eccetera eccetera. Non capita spessissimo di avere una persona che, ok, non sei tu, però insomma è la tua mamma, che l'ha vissuta, che ha sentito quei rumori, che ha visto quelle cose. Ci racconti esattamente, dunque, lei viveva dove esattamente? Sì, Fae Alto? Viveva a Fae Alto, che è una frazione di Longarone, dista dal centro, diciamo, circa 3 chilometri e mezzo. Ecco, essendo una frazione alta, si salvò proprio per quello, perché l'onda non riuscì, lambì solo, diciamo così, la periferia del paesino, ma non arrivò alla sua casa, ecco. Cioè, quindi loro percepirono l'acqua che stava salendo, oppure semplicemente capirono quello che era accaduto per via del rumore, per via del vento? Diciamo che più che l'acqua che stava salendo, loro sentirono un fortissimo spostamento d'aria, e man mano che l'acqua si avvicinava vedevano i pali della luce che scintillavano, perché stavano cadendo, diciamo, no? Pertanto è stata una sensazione fortissima che ancora adesso mia mamma ricorda, e che, diciamo così, lei mantiene, nel senso che quando c'è un qualsiasi problema atmosferico, di temporale, di acqua alta, eccetera, lei è molto impaurita. Senti Cesare, com'è cambiata la vita di tua mamma direttamente, ma di tutta la famiglia dopo quella tragedia? Cioè, loro hanno proprio, da un punto di vista pratico, si sono spostati, hanno dovuto cambiare lavoro, cos'è accaduto? Allora, diciamo che mia mamma, loro appunto hanno salvato la casa, e devo dire una cosa che riguarda anche me, che probabilmente io sono al mondo proprio per il disastro da Vajont, nel senso che poi mio papà dopo qualche anno è rientrato dall'Australia dove lavorava, e è andato a vedere i luoghi del disastro dalla provincia di Treviso dove abitava Conegliano, e ha conosciuto mia mamma, e poi si sono sposati, sono nato io, diciamo. E altri parenti, diciamo, tipo mio cugino ha perso 2 sorelle, la mamma e il papà, per dire. Quindi noi abbiamo circa una quindicina di morti, di persone defunte, stretti parenti di mia mamma. E quello immagino sia una cosa normale per le persone che sono sopravvissute di fatto a quella tragedia. No, immagino che tutte le famiglie di quelle zone abbiano dei parenti, degli amici che non ci sono più da quei giorni. Sì, assolutamente sì, diciamo che il cimitero monumentale che ha sito a Forzogna, lì vicino Longarone, costa circa 2000 persone, per cui puoi immaginare la strage che c'è stata. Senti, ma tua mamma quanto e come ne parla di questa storia? Cioè, gliela va tirata fuori lentamente, con calma, ha voglia di parlarne? Per esempio, come siete arrivati a scriverla e a mandarcela? Allora, tu hai fatto qualche tempo fa una puntata, sì, in cui era intervenuta, sì, una persona che parlava del Vajont, sì, e probabilmente era Mauro Corona, se non ricordo male. Allora, no, guarda, arrivò un SMS firmato Mauro, che alcuni mi dissero: guarda che probabilmente quello è Mauro Corona. Sì. Ecco, e da quella storia, da quella puntata che seguì, mi è venuta l'idea, era da un pezzo che ci stavo pensando, di tirar fuori e di scriverla insieme a mia mamma. Questa è stata un po' l'idea. Ma lei di solito ne parla di questa storia? Tipo con i nipoti, con tua figlia e tuo figlio? Ne parla e spiega chiaramente che una cosa che mi è sempre rimasta impressa: il monte che è caduto all'interno del bacino artificiale si chiamava Monte Toc, sì, che deriva da un'altra parola veneta, patoc, che significa marcio. Quindi il monte che franò si sapeva benissimo che non era solido e che prima o poi sarebbe terminato dentro il lago, diciamo. Che cosa ha fatto la mamma Bruna nella sua vita poi? La mamma Bruna se n'è andata prima in Germania, Poi è rientrata, è arrivato mio papà, si sono conosciuti, sposati, si è trasferita, poi sono andato io a Conegliano e poi ha fatto la casalinga. Ok, ok, quindi insomma una mamma e adesso una nonna italiana, direi, di questi sì. anni. E tu invece, poi ti saluto, tu cosa fai invece, Cesare? Io faccio il camionaro, guido il bilico che trasporta merci pericolose. Il bilico è quello, è il più lungo che c'è, giusto? È l'auto articolato, quindi non il camion rimorchio, ma trattore semirimorchio. E che strade fai di solito? Guarda, d'inverno faccio tantissimo la Romea, vado a caricare nelle Marche per Pordenone, mentre d'estate faccio locale, diciamo Friuli, Veneto Friuli. Il tutto pianissimo, vero? Non superi... Ma non c'è dubbio, anche perché se mi porto via la patente poi rimaniamo tutti a piedi, quindi... Cesare, quindi da domani, oggi sei a casa per stare vicino alla mamma Bruna, da domani riattacchi col camion? No, in realtà sono a casa un paio di giorni perché seguo un attimo mia mamma e riprenderò lunedì. Allora salutaci tanto Bruna, ringraziale per la storia, grazie a te e buon viaggio. È stato un piacere. Ciao, ciao Cesare, buona giornata. Ciao, grazie. Nel frattempo è arrivato al 349-238-6666 un messaggio di Sostene Schena, Sostene Schena, che conosco per aver già letto in giro, che è stato il primo giornalista, giovanissimo, ad essere arrivato sul posto giusto un quarto d'ora dopo, perché abitava a pochi chilometri di Langarone. Sostene, avessimo avuto ancora un quarto d'ora, avessimo avuto la vecchia edizione del programma, ti avremmo telefonato e avremmo sentito la tua voce. Purtroppo dobbiamo chiudere e quindi ti ringrazio per il messaggio. Ringrazio tutti quelli che stanno scrivendo anche sul profilo Facebook. Voi siete qui, radio24.it. Grazie a Paulino Corleo. Sì, buonanotte. Grazie a Pietro Lacorte. Scusami Pietro, puoi farla ripartire adesso. Grazie a Pietro Lacorte, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie soprattutto a loro due, a Cesare e a Bruna. La storia di oggi era la loro e anche loro sono un punto rosso su una mappa.